Radio 24. Libera la voglia di fare. Radio 24 presenta Il sabato del villaggio. Liberi consigli per il fine settimana. Buongiorno, ci siamo con il sabato pomeriggio di Radio 24, il sabato del villaggio, dove, come sempre, il villaggio è il nostro villaggio globale. Questa è la nostra guida per orientarci negli acquisti mentali, in tutte le nuove tendenze in fatto di musica, TV, serie TV, cinema, ma anche consumi, tecnologia, libri, insomma, i nostri liberi consigli per il fine settimana. Nella terza ora, dalle 17 alle 18, il nostro consueto appuntamento con RadioTube insieme a Daniele Bellasio per tutta l'attualità della rete e dalla rete. Anche oggi, sempre in diretta, sono le 15 e un minuto, tra qualche istante, per tenerci compagnia. 349-238-6666 è il numero per i vostri SMS, ma anche WhatsApp, 349-238-6666, ma c'è anche il mio account di Twitter o anche quello di Instagram, se volete, chiocciola Marta Cagnola, cancelletto ISDV, come il sabato del villaggio. Di cosa parleremo oggi nella prima ora? Beh, allora, l'appuntamento con le tecnologie, come sempre con Enrico Pagliarini, parleremo di un argomento di grande attualità: telefonini e rischi per la salute. Sapore di mare con il nostro gastronauta, poi come sempre tutte le uscite al cinema del fine settimana. Ma partiamo subito con un salto indietro nel tempo, o forse no. Di cose brutte ne avete sentite tante, ma credetemi, non avete ancora sentito questa. Maestro, vai con la musica! Questa qui non è una canzone, è solo un mio momento di confusione. Che fa trick-track, che fa? Tu ti mangiano vegano ed io mi mangerei anche il cuscino bio. Gna-gna, lui sull'iPhone che si guarda le serie, lei sullo step con il personal trainer. Diventi matto, tu hai Shazam, io l'uovo gatto. Ne ho viste tante io negli anni 90. Sì, sono io quello di Saravanda. Non ho una Lamborghini, guido una Panda. Questa non è una canzone, è solo propaganda. Se dicessi ciò che penso sulla Repubblica, tutto quello che penso su quello che la gente pubblica. Se dicessi ciò che penso sulla TV, non fatemi parlare. Maestro, musica! Basta parlare. Allora, non lo so se diventerà un fenomeno, già un sacco di visualizzazioni in rete questo video, che è il nuovo video, ma forse il primo video, di Enrico Papi, che si è dato alla musica, anzi alla moseca, come diceva lui un tempo. Perché questo video e questa canzone, che appunto io ci scommetto sentiremo moltissimo, perché non so se vi ricorda qualcosa, qualche canzone, peraltro lui ha partecipato a un video di, diciamo, di Rovazzi, e quindi può essere che anche questo possa diventare un tormentone. Allora, Enrico Papi nella canzone lo dice, ne ho viste tante negli anni 90, ed è un periodo in cui la nostalgia per gli anni 90 è molto presente. Altra notizia di stretta attualità: Sky Atlantic 1993, dal 29 aprile, che è oggi, se non sbaglio, con le date sono imbranatissima, ma oggi è il 29 aprile, fino al 16 maggio, Sky Atlantic HD più 1 diventa Sky Atlantic 1993, in attesa dell'inizio di 1993, che è ovviamente il seguito di 1992, ne avevamo parlato anche la scorsa settimana nel sabato del villaggio. È praticamente un canale temporaneo, Sky ogni tanto li fa. Ci saranno serie TV, film, musica e cartoon di culto di quel decennio, cioè degli anni 90. Qualche esempio: film come Le Iene, Una pallottola spuntata, Ladri di bambini, Codice d'onore, Filadelfia. Eventi sportivi come la finale femminile di Wimbledon, il Gran Premio di Europa di Formula 1, il match di Serie A Juventus-Sampdoria, siamo sempre nel 1993, Baywatch, Melrose Place, La Tata, Walker Texas Ranger, insomma... super nostalgia per gli anni 90. Noi ci immaginavamo di non essere mai usciti dagli anni 80, Pensavamo che il revival degli anni 80 sarebbe durato in eterno, invece adesso siamo già pronti per la nostalgia degli anni 90. Ma è un fenomeno? Allora, per cercare di capirlo, ho chiamato un amico mio, ma anche del Sabato del Villaggio di RadioTube. È un giornalista, scrive per un sacco di testate, è una personalità importante in rete, ma anche molto esperto di marketing. E quindi voglio capire un po' se questa nostalgia è un fenomeno e si può anche vendere, diciamocelo, dai, parliamone anche un po', senza peli sulla lingua. Do subito il benvenuto al Sabato del Villaggio a Michele Boroni. Ciao Michele! Ciao, pomeriggio a tutti! Ciao, allora, l'avevi sentito questo pezzo di Enrico Papi? Sì, sì, bene, sì. Tutte queste cose qui prima o poi mi arrivano, quindi... Beh, perché ormai è un fenomeno, certo. Cioè due giorni e già ha quasi 1 milione di visualizzazioni, quindi insomma, vabbè, inevitabilmente se ne parlerà molto. Allora, visto che tu sei esperto di costume, ma anche esperto di marketing, Michele, hai notato anche tu questo così ritorno improvviso degli anni 90? Sì, sì, allora cioè, ci sono due motivi. Innanzitutto, il serbatoio degli anni 80 è praticamente esaurito, nel senso mancano solo le spalline alle giacche per gli uomini e poi in qualche modo abbiamo preso tutto l'immaginario e tutta l'estetica degli anni 80, dalla musica al cinema a tutto il resto, quindi inevitabilmente si dovrà fare un passo avanti, anche perché, come dire, i target crescono e quindi si passa agli anni 90. Sì, sì, no, è assolutamente vero, è così e fa parte di quel gran fenomeno che gli esperti chiamano il nostalgia marketing o il marketing della nostalgia, perché ovviamente funziona molto bene, soprattutto quando non si hanno tante idee, diciamolo, perché insomma alla base di questo c'è una scarsità di idee, di innovazione, eccetera, e quindi si va a ripescare ad un immaginario conosciuto e che chiaramente fa piacere ritrovare, soprattutto in questo caso stiamo parlando al target dei trentenni, no? Trentenni, quarantenni, quelli che comunque hanno vissuto gli anni 90 da adolescenti o da giovani, e quindi il rincontrare personaggi, suoni, estetiche del passato e magari aggiungendoci qualcosa di più, qualcosa diciamo di contemporaneo, no? E quindi un prodotto contemporaneo legato però a quell'immagine lì, funziona benissimo e funziona in tutti i campi. Funziona ovviamente, come hai detto tu, in televisione, 1993 è forse il caso più innovativo, nel senso che alla fine pescano i ricchi nei ricordi, ma è un prodotto, come dire, nuovo in tutto e per tutto. Ma sempre parlando della televisione, basti ricordare Gilmore's Girls, cioè Una mamma per amica, certo, quella storica serie degli anni 90 che è stata riproposta senza neanche troppo successo, perché poi insomma non è detto che il ripescare dagli anni passati poi sia sinonimo di successo assicurato. E poi, come dire, gli anni 90 in televisione sono, almeno per noi, Twin Peaks. E che sta per tornare. Quindi diciamo, sulla televisione è un fenomeno assolutamente acclarato, ecco. Però questa cosa funziona anche nel marketing più puro, cioè quella dei prodotti di largo consumo. Vabbè, possiamo anche fare nomi di marchi ma sì. Prodotti. Il Winner Taco, che era stato chiesto, certo, a furor di popolo in rete, questo? Assolutamente, e perché appunto dava proprio quel sapore. In questo caso di sapore si può proprio parlare, perché era un gelato che funzionava in quegli anni lì, quando i trentenni di oggi, che quindi sono responsabili di acquisto, influencer nella rete, eccetera, eccetera, lo mangiavano, e quindi rimangiandolo ora in qualche modo gli sembra di tornare ai vecchi tempi. Quindi diciamo, questa cosa funziona molto bene per quei prodotti che, come dire, c'erano. Certo. C'erano al tempo e che quindi si cerca di riprenderli e magari aggiornarli con quelli che sono i bisogni diciamo contemporanei. Però poi ci sono quelle aziende o quelle marche che invece non c'erano negli anni 90. E quindi ripescano da un immaginario ad esempio la Apple, la Apple per il lancio del suo iPhone 6S in America ha ripescato il personaggio che era quello di Cookie Monster, che era uno dei personaggi della Muppet Show, quello, il mostrone blu che mangiava il biscottone, mostrone che mangiava i cookie. Perfetto, perfetto. Ha ripreso questa cosa qua ed ha funzionato. Ed ha funzionato per un target, diciamo, di allora bambini, ora 25-30 anni, e che comunque, insomma, oltre a, come dire, Apple non credo che abbia molto bisogno di questi stratagemmi, però fatto sta che anche loro l'hanno utilizzato. Allora, quindi, io ascolterai insieme un altro pezzettino di una trasmissione TV fondamentale negli anni 90, eccola qua. Buonasera amici Italia 1, benvenuti, lo so che avete capito dove siamo, lo so che l'avete capito, benvenuti a Milano! Siamo veramente tantissimi, lo potete vedere in questo momento dalle immagini. Beh, perché non confessare? Lo confesso, non sono emozionato. Di più, perché vorrei così dire grazie anche alla signora Fatma Ruffini che mi ha scelto per questa trasmissione, quindi grazie di tutto. Sì o no? Sì o no? Sì o no? Sì o no? Vabbè, Michele, abbiamo capito tutti che era Fiorello in karaoke. Tu hai detto che a volte le idee vengono riprese con maggiore o minor successo. Ogni tanto si riparla di rifare il karaoke, però certo ci vogliono gli ingredienti di un tempo. Eh sì. In realtà il karaoke non è mai morto, perché comunque nei bar della profonda provincia italiana comunque c'è sempre la serata karaoke e funziona, però come dire... Viva la profonda provincia italiana. Viva la profonda provincia italiana, però ecco, da qui a farne un programma largo, di successo, oggi sì, certo, c'è bisogno di qualche ingrediente in più. Infatti, come dire, il buon Fiorello se ne sta molto alla lontana e crea e trova, come dire, nuove formule completamente diverse, completamente innovative. Allora, c'è un ascoltatore che scrive: Walker Texas Ranger in realtà non se n'è mai andato via. Ha ragione, al nostro Adriano Cabella piace molto, di là dal vetro mi fa un gesto di esultanza per Walker Texas Ranger. Siamo anche la TV, soprattutto d'estate, delle repliche. Ma certo, poi c'è tutto il mondo delle repliche che a tarda notte su certe reti e soprattutto come dicevi in estate è assolutamente un programma di successo, ma basta vedere anche i continui ascolti che fa, ad esempio, un film come Pretty Woman, certo, come farebbe Dirty Dancing o Ghost, eccetera. Quindi insomma, gli anni 90 da quel punto di vista lì sono una fucina di ascolti e di successo. Poi sempre parlando della televisione, mi ritornava in mente un programma di oggi, comunque a suo modo innovativo, come quello presentato da Alessandro Catteran su Sky, comunque ha sempre un riferimento degli anni 90, a telefilm, a musiche, e quindi insomma anche i programmi innovativi comunque inseriscono sempre un elemento di revival, perché sanno che fa pronta presa, come si dice. E c'è un altro ascoltatore che scrive, e lo stavo per dire io, anche la signora in giallo ha fatto una strage. Cioè, in realtà sono anche più vecchi, però in quella Cabot Cove continuano a consumarsi delitti tremendi. E io penso che non sia estate se non c'è la signora in giallo. Lo dico già a Rai 1, replicatemela se no non è estate. Certo, assolutamente, no, sono d'accordo. Grazie a Michele Boroni per essere stato con noi. Io adoro quando posso ospitarlo al Sabato del Villaggio a RadioTube, perché il suo sguardo sulla rete, sul marketing, sui mezzi di comunicazione è unico. Grazie per essere stato con noi, grazie Michele, ciao. È un piacere, grazie a te, ciao a tutti. Allora, noi ci ritroviamo tra poco, c'è la viabilità e poi parleremo un po' di sapori. Chissà se avremo ancora un po' di nostalgia per le serie TV, secondo me sì. Ho fatto vedere

di vini su tutto il territorio, quindi credo che sia un posto che valga la pena chi va a Parma oppure che ci va apposta per andare a Parma. Beh, che meraviglia, non so se scegliere tra lo zabaione e il gelato. Nel frattempo in questo momento è entrato Enrico Pagliarini in studio. Enrico, ti sono fischiate un po' le orecchie perché abbiamo parlato tantissimo di te con Davide Paolini. Sì, facendo di sì, vabbè, dopo ti racconto durante la pausa. Grazie Davide, ciao. Mi hai fatto venire una voglia buona di domenica. Zabaione e di gelato che vabbè, lasciamo perdere. Puoi mangiarli tutte e due. Tutte e due. Grazie Davide, buona domenica a te, al prossimo sabato. Pausa e poi saremo insieme a Enrico che sta attaccando la cuffia. Tra poco. Il sabato del villaggio. You used to call me on my cell phone. Late night when you need my love. Call me on my cell phone. Late night when you need my love. And I know when that hotline bling, that can only mean one thing. I know when that hotline bling, that can only mean one thing. Ever since I left the city, you. Ogni volta che ascoltiamo questa canzone sappiamo che siamo per parlare di telefonini. Ciao Enrico, ecco Enrico Pagliarini. Ciao, buongiorno. Adesso gli ho spiegato perché l'abbiamo coinvolto. Allora organizziamo questa puntata, questo ménage à trois, io e te Davide Paolini sull'aceto balsamico. Oui. Okay. Non so altro di francese, cioè qualcosa. Però ménage à trois l'hai capito. Sì, quello sì. Intanto stanno arrivando un sacco di messaggi sulle serie televisive perché abbiamo parlato di nostalgia e la nostalgia applicata alla TV, quindi... Avete parlato anche di Happy Days? Abbiamo citato Happy Days, tra l'altro ne parleremo anche in RadioTube, perché ovviamente insomma questa settimana se ne è parlato molto. Ci citano Il Principe di Bel-Air, Bayside School, se hai qualche... Poi io ti guardavo chiedo. Solo due cose. Cosa guardavi? Happy Days e... quelli con la macchina con 0-1, come si chiamavano? Hazard, ecco. Ma ti vedo bene ad Hazard. Però, io. Poco altro, eh. Ah, ecco. Sì, no, io ero già teledipendente allora. Allora, Enrico, questa settimana si è parlato tanto di telefonini, di sicurezza, abbiamo letto delle notizie di cronaca, sentenze che ci hanno allarmato. Sì, non bisogna allarmarsi, ecco, diciamo che... facciamo un po' di... Il telefono cellulare, lo smartphone fa parte della nostra vita, possiamo tranquillamente usare questi strumenti senza grosse preoccupazioni, però un pochettino di attenzione va posta su alcuni modi di usare questi strumenti. Allora oggi vorremmo, tranquillizzando insomma chi ci sta ascoltando, ma anche rispondendo alle molte domande che ci hanno fatto, certo, scrivendoci o anche personalmente, ma perché non parlate di quella cosa? Allora noi parliamo di quella cosa, cioè, allora, recentemente sono già tre i casi, ma sono diciamo due nel giro di poche settimane, tribunali italiani hanno riconosciuto a due persone che hanno lavorato per molti anni utilizzando un telefono cellulare una correlazione tra questo e una forma benigna di tumore, quindi non stiamo parlando di cose gravissime, però è stato riconosciuto in entrambi i casi, stiamo parlando di tribunale di Firenze e di Ivrea, una indennità che dovrà essere riconosciuta dall'INAIL. Ma esuliamo da questi fatti di cronaca che abbiamo commentato, abbiamo parlato tanto nei nostri giornali radio. Sì. Però questo ci dà il là per farci una domanda: ma allora i telefoni cellulari sono pericolosi o non sono pericolosi? Allora, ovviamente noi in questi 10 minuti non possiamo, non vogliamo e soprattutto non possiamo dare risposte definitive perché gli stessi scienziati non hanno una risposta definitiva. Sono stati fatti e sono ancora in corso studi molto approfonditi e di medio-lungo periodo sugli effetti sulla salute dell'uomo delle radiazioni emesse dai telefoni cellulari. Allora, se facciamo riferimento al rischio di tumore, non esiste una correlazione certa fra la malattia e l'uso dei telefoni cellulari, non c'è un accordo tra gli scienziati, ma non esiste nemmeno una certezza contraria, cioè che sicuramente l'uso dei telefoni non sia dannoso. Okay. Allora, va ricordato, ed è bene ricordare, che nel 2011 un gruppo di 31 esperti dell'agenzia che fa ricerca sul cancro dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, è un documento lungo, ma diciamo il documento di sintesi è anche abbastanza facile e semplice, me lo sono andato a leggere pochi minuti fa, a rileggere pochi minuti fa, e questi 31 scienziati sono arrivati alla conclusione che l'uso del telefono cellulare è da inserire nei fattori che sono potenzialmente cancerogeni. Però attenzione, ci sono altri due livelli, cioè probabilmente cancerogeni e certamente cancerogeni, quindi siamo ancora... Cioè gli studi non lo escludono, però non propendono per il fatto che sia probabilmente. Sì, esattamente, okay. Quindi questi scienziati dicono che sono necessari ulteriori studi. Allora, visto che mancano ancora molte certezze scientifiche, molti studi, gli stessi scienziati che scrivono questo documento dicono: beh, meglio essere prudente e usare alcune precauzioni, che sono, devo dire, in molti casi molto banali e devo dire in molti casi anche molto comode, e mi verrebbe da dire in alcune situazioni anche obbligatorie per legge. Ok. Faccio subito l'esempio. Ecco, appunto. L'automobile. Usiamo il viva voce. Certo. Usando il viva voce otteniamo due risultati. Prima di tutto non ci becchiamo la multa, che non è poco, insomma. Secondo, teniamo lontano il cellulare, il telefonino, lo smartphone, okay, chiamiamolo come lo vogliamo, dal nostro orecchio. Oppure usiamo l'auricolare. Io spesso giro con l'auricolare, perché poi magari andando in macchina uso l'auricolare e molti pensano che io sia matta perché parlo da sola, poi perché? Si accorgono che ho l'auricolare. Beh sì, certo, c'è la scena di quelli che passeggiano parlando con l'auricolare. Io sono, che è tipica mia, che io passeggio con l'auricolare. Io questo lo consiglio a prescindere, cioè un bel viva voce in automobile è una delle cose più comode del mondo, e io non riesco a capire, al di là dei problemi con la legge, cioè prendo la multa o non prendo la multa. Anche perché diciamo che la legge ha una sua ratio, cioè sì, certo, è pericoloso. Sì, sì, tra l'altro ultimamente c'è stato anche un aumento degli incidenti per strada. Quindi viva voce, che è comodissimo, o auricolare, anche che sia wireless. Non preoccupiamoci troppo, e magari dopo parliamo anche di potenze emesse. L'auricolare senza fili Bluetooth ha una emissione di potenza molto molto leggera, che non è assolutamente pericolosa, questa sicuramente. Allora, secondo consiglio, usare il cellulare laddove è possibile all'esterno. Allora, chiaro che non è che uno può sempre uscire di casa, però ad esempio può andare vicino alle finestre. Allora, ad esempio puoi abbassare il finestrino se sei in auto fermo e non vuoi usare il viva voce o non puoi usare il viva voce. A volte c'è chi non ha il viva voce e dice: aspetta che mi fermo. Benissimo, abbassa il finestrino. Certo, se piove non è una cosa positiva, non si può fare. Allora, tenete il cellulare lontano dal corpo quando siete a passeggio. Io giro quasi sempre con uno zainetto. Beh, noi tu donne gira... ce l'abbiamo in borsa, magari, ecco, sono i signori che lo tengono nel taschino della giacca. Ecco, magari non teniamolo nel giacchino della giacca sulla sinistra, dove c'è il cuore, no? Maschi e femmine, questo è uguale, quindi okay, cambia niente. Sì. Anche noi non ci abbiamo il taschino della giacca. Quindi siete avvantaggiate da questo punto di vista, no? No, scusa, sto sorridendo perché è arrivato un messaggio via Twitter di @212. Io parlo da sola, era un problema, poi hanno inventato gli auricolari. Cioè, lei parla davvero da sola. A prescindere dal esatto, telefono, certo, sì, sì. Allora, taschino della giacca, meglio di no. Scrivania. Allora, piuttosto che tenere il telefono, come ad esempio in questo momento, proprio davanti alla pancia, sì, no? Mettetelo magari sulla destra o sulla sinistra, a un mezzo metro, un metro. Guardate che basta pochissima distanza dal corpo per abbassare drasticamente la potenza che ci arriva, che dall'antenna del telefonino arriva sul nostro corpo. E quindi ti faccio la domanda. Fai la domanda. E io purtroppo faccio questa cosa, lo tengo sul comodino perché lo uso come sveglia. Benissimo. Faccio male? Dipende. Se è acceso, io lo terrei spento, ecco. No, non ma so perché io sono. No, lo tengo acceso perché ho sempre l'ansia di io telefonate. Io non lo farei, cioè, sempre per il principio di precauzione. Sì. Lo devo tenere più lontano? Lo terrei più lontano. Che ne so, avrai un mobile, un qualcosa del genere, dove appoggio una sedia, dove appoggiarlo in camera da letto, mettilo là, qualche metro di distanza, problemi zero. Ok, zero, va bene, dai, farò così. Quindi se lo teniamo, ad esempio, io lo tengo proprio vicino di notte, anche perché soprattutto quando devo venire per il giornale radio all'alba, io ho 3-4 sveglie, un sistema di sveglie per essere sicuro. Io ho tre. Sì, sì, per essere sicuro, e quindi lo uso come sveglia. Però in quel caso io spengo l'antenna. Ok, sia il wifi che la ricezione. Allora apriamo il capitolo wifi, ecco. Perché effettivamente non capisco perché su 10 domande di persone preoccupate per l'esposizione alle onde elettromagnetiche, 7-8, ma direi tendenti al 9, sono sul wifi, ecco. Allora teniamo conto che qui bisognerebbe fare mille distinguo sui prodotti che vengono utilizzati. Più o meno gli smartphone sono grosso modo paragonabili, però ad esempio se ci buttiamo sul wifi dipende se stiamo parlando di sistemi che vengono utilizzati in azienda, per che tipo di cosa vengono utilizzati. Però prendiamo l'esempio del router di casa, quindi sì, il wifi sì. di casa tipico. Allora, grosso modo a spanne, senza fare tutta una serie di distinguo che andrebbero ovviamente fatte, ma per semplificare molto, possiamo dire che la potenza emessa da un wifi è di una decina di volte inferiore a quella emessa da un telefono cellulare, da uno smartphone. Questo è facilmente comprensibile, perché se noi siamo collegati al wifi e ci allontaniamo dal router, magari andiamo fuori dall'appartamento e siamo dietro a 2 o 3 muri, il segnale del wifi praticamente non c'è più, comunque degrada moltissimo. Okay. Quindi la potenza emessa da quell'oggetto non è elevatissima. Invece il telefonino cellulare riesce ad agganciare delle antenne, cioè noi ci agganciamo alla rete di telefonia mobile, addirittura se siamo nelle città magari a poche centinaia di metri, a 1 chilometro, ma se siamo fuori dai centri abitati, beh, quel telefonino ha una potenza che serve per agganciare antenne che sono anche a chilometri di distanza. Ok, quindi ci preoccupiamo statisticamente di più del wifi, sì, cioè sì, ti arrivano sì. più domande sul wifi. Assolutamente, sì, sì. Ma allora, è vero che il wifi è sempre acceso, oppure lo è per molte ore, perché magari siamo in una stanza dove è sempre acceso il wifi, però anche in questo caso, ripeto, se noi siamo a pochi metri dal wifi, possiamo stare tranquillissimi. Ecco, non terrei un router wifi di fianco al letto mentre dormiamo. Ok, no, io il router ce l'ho lontano, però tengo abbastanza vicino il telefonino. Però tu mi dici, ma tieni lontano anche non il telefonino. Mai. Che ripetiamo, non si sa mai. Ripetiamo, stiamo parlando di principio di precauzione. Certo. Non c'è nessuna certezza, ma visto che non c'è nessuna certezza contraria, per precauzione utilizziamo tutti questi metodi. Enrico, sono le 15.44 sì, e 44, ci fermiamo per 44 e 44, anche 46. Ci fermiamo un secondo, viabilità e poi il resto dei consigli. Sì. Traffico. Il sabato del villaggio. You used to call me on my cell phone. Late night when you need my love. Call me on my cell phone. Late night when you need my love. And I know when that hotline blink, that can only mean one thing. I know when that hotline blink, can only mean one thing. These days, all I do is wonder if you're bending over backwards for someone else. Wonder if you're rolling up a backwards for someone else. Doing things I taught you, getting nasty for someone else. You don't need no one else. You don't need nobody else. No. Eccolo qua il nostro hotline bling, che usiamo sempre quando parliamo di telefonini, perché mi piace questa. Non è che dobbiamo pagare questa. I diritti tutte le volte che ma se la li usiamo merita, un po' troppo spesso sta canzone. Se li merita, se li perché è bella. Allora sai che sono arrivati un po' di messaggi, sì. Allora Marco da Torino: salve, come si spegne l'antenna del telefonino? E poi ancora, uso in aereo equivale a spegnere l'antenna? Ecco, noi a volte diamo per scontate alcune cose, però ecco, uso corretto, in aereo. Corretto, sì. Modalità aereo. Su tutti gli smartphone la modalità aereo è quella che spegne le connessioni, che siano wifi, bluetooth, la connessione alla rete cellulare. Questa è la modalità più veloce. Poi uno se potrebbe no andare, puoi anche solo togliere il wifi, potrebbe, sì, uno potrebbe però, andare anche a discriminare, però non spegni l'antenna, sì, sì, però esatto, sì. Continua a ricevere la cosa il migliore, molto più semplice, è metterlo in modalità aereo. Perfetto. Che è quello che appunto succede in aeroplano. Altro WhatsApp al 349-238-66. Oppure spegnerlo, Ah beh, certo. Se non lo spegni. Certo. E molti telefonini funzionano lo stesso, la sveglia, perché si riaccendono. Sì, non tutti, vuol dire però, che non purtroppo, è. Sì. Ecco. attraverso l'auricolare a filo possono propagarsi le frequenze del cellulare? Beh, allora c'è un dibattito, sì, però molto, molto, molto inferiore rispetto a tenerlo attaccato all'orecchio. Ok, allora Enrico, ti avevo interrotto su un consiglio, ma ne hai ancora? Sì, no, un consiglio che, allora, chi ha una rete internet, chi ha internet in casa, automaticamente ha anche, diciamo, nella stragrande maggioranza dei casi, il telefono fisso. Ci sono oramai, quasi tutti gli operatori offrono pacchetti, i prezzi cambiano da operatore a operatore, pacchetti che comprendono tutte le chiamate a sia i telefoni fissi che i telefoni mobili. Quindi, ad esempio, un'idea è, se uno fa molte telefonate e magari fa anche molte telefonate ai telefonini, non usare lo smartphone ma utilizzare il classico telefono fisso, che sempre più spesso è in realtà un telefono cordless, cioè che poi un telefono... in realtà in molti, io per prima, abbiamo solo perché abbiamo l'accesso a internet, certo, e quindi certo. Lo teniamo, ma non lo usiamo quasi mai. Però invece potrebbe essere un'idea utilizzarlo. Allora, visto che molti telefoni sono oramai non il classico telefono a filo, che comunque da preferire anche radiofonicamente parlando, perché allora infatti noi diciamo sempre, quando abbiamo un ospite, dobbiamo chiamare un ospite, chiediamo se anche un fisso, che sì, così sentiamo sì, meglio, esatto, un classico. Esatto. Sì, non c'è nulla di meglio del cavo, però visto che in molte case c'è il telefonino senza fili, quello di casa, possiamo utilizzare quello. E allora uno a questo punto potrebbe dire, vabbè, ma allora se uso un telefono senza fili che ha un'emissione elettromagnetica, cadiamo dalla padella, ecco, alla braccia. Sì. No, qui vale il discorso che ho fatto prima, cioè quanto è potente questo telefonino, cioè questo telefono cordless senza fili. Non è tanto potente, quindi perché già se vado sul pianerottolo non si sente più. Esattamente. Quindi la potenza emessa è così bassa, per cui possiamo stare tranquilli, o comunque sappiamo che siamo esposti a un campo elettromagnetico molto molto inferiore rispetto al nostro telefono cellulare. Questo non per allarmare nessuno. Certo. Ma infatti noi vogliamo esatto, dare dei consigli, come abbiamo detto, di precauzione, perché non ci sono ancora abbastanza sicurezze. Un ultimo consiglio? L'ultimo consiglio è telefonare meno. Avete capito perché io adoro Enrico Pagliarini? Perché lui è il re del buonsenso. Ultimo consiglio: telefonare meno. Telefonate meno. Si spende meno. Poi è vero che oggi ci sono i monti minuti, mille minuti, 10.000 certo. minuti, 100.000 minuti. Uno dice, vabbè, ma tanto mi sono rimasti 8.000 miliardi di minuti, e quindi telefono così, senza motivo, solo per scocciare le altre persone che magari stanno facendo un'attività molto più interessante. Adesso, a parte questi scherzi, però potrebbe essere un'idea, ad esempio in treno. Perché dovete telefonare e disturbare tutti? Leggete un bel libro, leggete internet sul tablet, ecco. Ecco. Allora, invece no, l'ultimo consiglio ce l'ho io ed è quello del Super Podcast di 2024. Super Podcast, sì, abbiamo questa settimana... parlato... Allora, speaker wifi, bellissimi, fantastici, diffusori audio per ascoltare la radio in primis, ma anche la musica, tutto quello che volete in casa, però in un modo molto moderno. Anche per ascoltare il Super Podcast di 2024. Esatto. Ciao. Resta in studio con me Enrico, adesso parliamo di cinema. State pronti, saranno qui a momenti. È un fucile. Non ti sembra un fucile? In genere io usavo i fucili e tu le spade, ma pare che ora usiamo i fucili tutti e due. Non immaginavo. Ah, tosta questa. Bruta, lascia la cintura! Salveremo di nuovo la galassia? Sì. Mitico! Potremo alzare molto i prezzi se salveremo la galassia due volte! Sì! È il momento dei film al cinema questo fine settimana. Allora, intanto già abbiamo ascoltato un brevissimo estratto di un film molto molto atteso, un nuovo capitolo dei Guardiani della Galassia, ma varrà la pena andarlo a vedere? Lo chiediamo subito al nostro super esperto che sarà con noi dopo le 18 con La Rosa Purpurea, Franco D'Assisti. Ciao Franco! Ciao Marta, ciao, siamo già qua in postazione, alle 18 La Rosa Purpurea parleremo ovviamente anche, perché è una puntata ricchissima, parleremo anche dei Guardiani della Galassia, volume 2, come si usava a scrivere sui dischi in vinile o sulle audiocassette 30 anni fa, che è il sequel del primo, che ha aperto un po' la strada, il primo capitolo dei Guardiani della Galassia, un nuovo modo di concepire il cinecomic, i supereroi, insomma, molto scanzonato, molto sorridente, molto ironico e con personaggi veramente strampalati e anche con qualche piccola vena di political correctness che mi sembra una cosa importante. In questo caso è una caccia al padre, perché bisognerà andare a capire chi sia il padre di Peter Quill, Star-Lord, Chris Pratt sullo schermo, e scopriremo che si tratta di un padre un po' un padre padrone, ecco, fatemi dire, che le cose non sono mai come sembrano, così come non sono mai come sembrano in questa mini saga. Siamo arrivati al secondo volume, ma sono convinto che andremo avanti per un po', che è ancora una volta molto divertente, con i personaggi ben azzeccati, con le battute dove devono essere, con effetti speciali ovviamente e atmosfere che sono allo stato dell'arte, straordinarie. E quindi, che dire, abbiamo forse scoperto una saga che farà compagnia alla nostra generazione come Star Wars fece compagnia alla generazione di 30-40 anni fa. Franco, poi c'è un altro film che mi incuriosisce molto, che è questo The Circle. Mi pare che sia quello che tratta un tema molto molto attuale. Sì, è un film con un tema di grande attualità, e forse qualcuno ha parlato giustamente di presente distopico, perché non è tanto fantascienza, insomma le cose che si raccontano potrebbero, ammesso che non succedano, succedere anche adesso. È la storia di una ragazza che ha una vita molto difficile, resa difficile da un padre gravemente malato, da una precarietà di fondo che è quella di una generazione, stiamo parlando in questo caso di Emma Watson, che a un certo punto viene assunta in questo The Circle, in questa azienda che è il più grande social network esistente, dove però le persone dentro sembrano un po' lobotomizzate, insomma quasi aderenti a una sorta di setta di religiosa, e tutto questo chiaramente un po' si è respirato a volte anche in questi ambienti, fino a quando il capo di questa azienda, di questo social, che è Tom Hanks, non propone alla ragazza di poter sostanzialmente pagare le cure del padre con un esperimento, essere monitorata e spiata un pochino e messa in onda soprattutto sui social e dappertutto 24 ore su 24, una cosa che finché si ferma alla persona in oggetto ha il suo senso, quando va sugli affetti familiari diventa ingestibile e ingovernabile. E insomma, si ragiona sul peso dei social e su quanto siamo disposti, o anche quando non siamo disposti, siamo costretti a dare di noi stessi a questa sorta di messa in scena pubblica di noi che sono appunto i social. E devo dire che il tema era molto forte, il romanzo da cui è tratto molto interessante, il film secondo me a un certo punto un po' si perde in una mancanza di verosimiglianza, in una plasticità che diventa un po' un limite, ne appiattisce quelle che erano delle potenzialità importanti. Franco, per finire, un consiglio di un film italiano in sala questo fine settimana? Ma guarda Marta, sai, quando nelle sale esce un film nuovo di Gianni Amelio io sono sempre contento, perché è un regista che ha segnato per bene soprattutto gli anni 90 italiani, è un regista di grande cultura cinematografica, che gira come pochi sanno girare, le cui immagini, il cui punto di posizionamento della macchina da presa non sono mai banali, e che torna con questo La tenerezza, che è una storia di anime, è una storia di anime che si incontrano, quella di un anziano avvocato napoletano, interpretato da un grandissimo Renato Carpentieri, e di una giovane moglie, mamma di famiglia, arrivata lì con il marito dal nord, dal profondo nord, per passare un periodo di lavoro a Napoli, interpretata invece da Micaela Ramazzotti. Queste due anime così diverse, lui così metodico, così padrone del suo territorio, lei un po' spaesata, si incontrano e non finirà hanno mai di scambiarsi tenerezza che in fondo è quella di una paternità mancata, o forse di una figlia che non ha mai sentito vicini i genitori. È un film, ripeto, di anime, perché non è un film di fatti, è un film che ci porta però lentamente dentro il suo gorgo a riflettere su quello che siamo e su questa caratteristica della tenerezza che è così vilipesa, se vogliamo, al giorno d'oggi, quando dobbiamo sempre essere tutti sfrontati sul pezzo e capaci di impressionare chi ci è di fronte. Quindi un film davvero consigliabile. Grazie a Franco D'Assisti, quindi l'appuntamento con te dopo il giornale radio delle 18 con La Rosa Purpurea. Ciao Franco. Ciao Marta, ci sentiamo alle 18 con Gianni Amelio, con tanti ospiti, restate con noi, a fra poco. Sono Gigi Telesforo e volevo ricordarvi l'appuntamento con la grande musica di Radio 24. Soundcheck, il suono della musica. Di Gigi Telesforo. Sabato e la domenica a partire dalle 19:15. Soundcheck, sempre soltanto su Radio 24. Il sabato del villaggio. Stavo chiacchierando fuori dallo studio e Andrea Roccabella si deve urlare 30 secondi. Sì, ma io cammino piano perché sennò mi viene il fiatone. Fai pure andare la sigla. No, sono arrivata in tempo. La seconda ora del nostro sabato del villaggio. Abbiamo parlato di un sacco di argomenti interessanti nella prima ora. Abbiamo parlato di sapore di mare, di acciughe, di alici, di sarde. Abbiamo parlato di tutti questi argomenti molto gustosi con il nostro gastronauta. Abbiamo parlato di nostalgia degli anni 90, poi di telefonini e sicurezza con Enrico Pagliarini. Sono arrivati molti messaggi proprio sotto questo punto di vista. Sempre al 349-238-6666 per SMS, per WhatsApp, ma c'è anche il mio account di Twitter, chiocciola Marta Cagnola. Di cosa parleremo invece nella seconda ora del sabato del villaggio? Parleremo, e ogni tanto parliamo anche di sport, di Formula 1, con una grande mostra dedicata a Gilles Villeneuve. Con Maria Luisa Pezzali parleremo di pappe per bimbi. La moda di primavera, poi tutto quello che dobbiamo avere in questa stagione, ma cominciamo parlando di un evento che ha davvero un successo travolgente. C'è Andrea? No, perché dobbiamo presentare insieme i premi Micheluzzi per il Comic Con di Napoli, quindi quello che... Senti, guarda, ho già fatto preparare il vestito, l'ho stretto un po' troppo in vita, però il colore è adattissimo, non vorrei fare una figuraccia con i fotografi. Ma perché l'Oscar? Pronto? Oh, bello, ciao! Sì, ma come non ti ricordi i Micheluzzi? Ma sono oltre gli Oscar i Micheluzzi. Calcolo, i Micheluzzi sono oltre il telegatto. No, me devi fare un sì convinto, voglio... Un sì convinto. Ma ha fatto il sì convinto? Bravo. Senti, povero, te devo lasciare che sto in mezzo a un casino qua. Sto a una riunione, te saluto. Ti ricordi adesso? Allora, i premi Micheluzzi Comic Con di Napoli, questi erano Fabrizio Biggio e Andrea De Logu, ciao Andrea, un'amica, che insomma partecipano in qualità di conduttori a questi premi, che sono uno dei momenti culminanti della 19ª edizione di Napoli Comic Con, Salone Internazionale del Fumetto, un evento talmente sold out che a volte nelle viabilità sentiamo dire che c'è traffico attorno alla zona, perché Napoli è frequentatissima per questo Comic Con. Davvero un'occasione imperdibile per tutti gli appassionati di fumetto, di cartoni animati, insomma per tutti noi che siamo sotto un po' nerd, un'occasione davvero estremamente interessante. Abbiamo in diretta direttore e ideatore del Comic Con, Claudio Curcio. Buonasera Claudio. Ciao Marta. Eccoci qua. Tutti. Allora, beh, intanto fatemi dire che questa clip molto carina che trovate su YouTube nel canale ufficiale del Comic Con, allo zampino del nostro amico Gianmaria Tammaro, che abbiamo spesso al sabato del villaggio, quindi insomma tra amici ci si apprezza molto. Ma è vero che c'è un sacco di gente al Comic Con, Claudio? Tanta proprio. Ce n'è tanta, sì, come dicevi, oggi e anche domani siamo già sold out, cioè abbiamo raggiunto il limite, c'eravamo insomma prefissati di affluenza, restano qualche migliaia di biglietti per lunedì 1 maggio, che è l'ultimo giorno, e effettivamente congestioniamo un po' la zona di Purigrotta, dove c'è la mostra d'oltremare, dove il Comic Con si svolge. Eh sì, quando ci sono queste manifestazioni così grosse si capisce proprio perché, appunto, traffico in zona, ma è un segno di grande attenzione e di grande apprezzamento. Cosa succede un po' al Comic Con per chi non conoscesse questa manifestazione? Beh, Comic Con, come dicevi, è un salone internazionale del fumetto, è un appuntamento per tutti gli appassionati e non, nel senso che abbiamo tutti gli editori italiani, tantissimi autori, quasi 200 disegnatori, sceneggiatori dei fumetti, di tutti i fumetti, dal fumetto d'autore, graphic novel, a Disney, supereroi americani e autori che vengono da Francia, Giappone, Stati Uniti. Abbiamo per esempio il grande Toyotaro, che è il disegnatore che ha preso Dragon Ball e lo sta continuando con la nuova serie Dragon Ball Super. Abbiamo Scott Koblish, che è il disegnatore di Deadpool per la Marvel. Ma tra gli italiani c'è Gibi, Tero Calcare, Sio, Leo Ortolani e senza dimenticare il magister Roberto Recchioni, che ha realizzato il nostro manifesto e che si è dato insomma una serie di mostre, di appuntamenti lungo tutti i 4 giorni, si è dato e si darà. E che in questo video si è prestato con grandissima ironia a giocare a un irresistibile grillo parlante. Italiani, gli italiani stanno andando fortissimo col fumetto e con la graphic novel, sono molto, non è un fenomeno nuovissimo, ma un fenomeno veramente importante. Sì, sì, anche in Italia insomma il fumetto ha cominciato a prendere un posto importante nella produzione culturale, l'arrivo nelle librerie, forse l'utilizzo di questo termine graphic novel ha un po' smosso le acque, e non dico come in Francia, però abbiamo insomma autori che vendono decine di migliaia di copie. Allora, età dei frequentatori del Comic-Con. Allora, noi abbiamo giovani e giovanissimi, nel senso che partiamo dai preadolescenti. Ti stiamo facendo no, soffocare, non ti preoccupare, Claudio. capita l'attacco di tosse proprio mentre si sta parlando al telefono, sì, e alla radio contemporaneamente. Tranquillo, se devi bere un sorso d'acqua, noi siamo qui, non ti preoccupare. Okay. Dicevamo, quanti anni hanno i frequentatori del Comic-Con? Perché appunto il fumetto, il cartone animato, il cosplay, ti chiederò anche se ci sono cosplayer, ormai hanno un range di età di appassionati piuttosto ampio. Sì, perché in realtà diciamo gli appassionati possono essere giovani lettori, adolescenti o anche vecchi lettori che riscoprono i loro fumetti preferiti. È chiaro che cosplayer ce ne sono tanti, forse quelli, diciamo, l'età è sicuramente più bassa, però noi facciamo degli studi insomma con delle società di ricerca e abbiamo un'età media che si situa tra i 18 e i 25 anni, diciamo, come frequentatori maggiori. Poi però punte insomma che vanno dai 9 ai 99, come ci piace dire, perché ovviamente non si smette mai di essere appassionati di fumetti, dei personaggi preferiti, delle storie preferite. Insomma, noi abbiamo una sezione anche di antiquariato, certo, per cui i più grandi possono ritrovare le cose che leggevano prima o che continuano a collezionare, perché nel mondo del fumetto c'è anche una forte componente, no, di collezionismo e di tavole originali. Insomma, è un medium che noi abbiamo da sempre cercato di promuovere con l'importanza che dovrebbe avere, insomma, alla pari di letteratura, cinema, ed è per questo, per esempio, ecco, che anche con i premi Michelucci, che sono un po' i premi di riferimento del mondo del fumetto, stiamo cercando di fare questo lavoro così di verso l'esterno, anche grazie a Fabrizio Biggio e Andrea De Logu, che li presenteranno quest'anno. Ho citato i cosplayer, cioè quegli appassionati che si travestono anche da protagonisti delle graphic novel, dei fumetti o dei cartoni. Ce ne sono al Comic-Con? Sì, come no. Che meraviglia, io li adoro. È un fenomeno che oramai insomma è trasversale a tutte le manifestazioni, dalle più importanti alle più piccole. Noi, figurati, abbiamo proprio oggi partirà una gara che chiamiamo Cosplay Challenge Pro, che a numero ridotto sono i più bravi, perché chi vincerà stasera qui da noi andrà a rappresentare l'Italia all'Euro Cosplay a Londra in ottobre. per che cui anche qui c'è, come dire, anche qui una cosa seria. Bello, bello. E non poi solo domani, sì. Domani invece c'è quella lì aperta a tutti, in cui sfilano, insomma, quelli che vogliono divertirsi, non, insomma, non passano non ore, competitivamente. Ore. Esatto, non competitivamente, bravo. Che meraviglia, Claudio, è veramente una cosa molto bella, il Comic Con a Napoli, Fiera d'Oltremare, hai detto. Allora, sì. Domani ancora sold out, ma ci sono ancora biglietti per il 1° maggio, quindi... Sì, esatto, ci sono ancora biglietti, si possono acquistare online o dai rivenditori o anche alla biglietteria che abbiamo aperto qui. Potrebbero finire anche quelli, quindi insomma chi è interessato faccia presto. Perché ecco, allora correte subito online a comprare il biglietto per il Comic Con, perché secondo me poi andare a vedere anche questi, anche se uno non è appassionato di graphic novel, di fumetti, è uno spettacolo da non perdere. Grazie a Claudio Curcio e buon Comic Con allora! Grazie a te Marta. Noi ci ritroviamo tra pochissimo, il traffico, e poi parleremo di un po' di moda di primavera. Il sabato del villaggio. I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me. It hurts. And I'm too sexy for Milan, too sexy for Milan, New York and Japan. Allora, questa è una musica che utilizziamo spesso, anzi sempre, per parlare di moda. Io la adoro, questa I'm too sexy. Lo sa la nostra super esperta, la nostra grandissima amica, nonché molto amica di tutti gli ascoltatori di Radio 24 che la sentono nella rassegna stampa, la sentono parlare in inglese, ma per il Sole 24 Ore lei è super super super esperta di moda. Giulia Crivelli, ciao Giulia! Ciao Marta, tra l'altro arrivo da Monza, dalle tue sei parti. Stata dalle mie parti? Sì, sono andata a provare il ristorante che ha consigliato Davide Paolini settimana scorsa. Dai. E si chiama Il Moro e lo consiglio a tutti, un posto splendido. Allora, la prossima settimana bisogna andare a Parma a provare quello di oggi, molto molto bene. Okay. Giulia, allora io l'unica cosa che ho capito è che questa primavera devo comprarmi, non è che mi piacciono tanto, le camicie con i buchi sulle spalle e molti volant, cose del genere, non lo so perché, bisogna comprare queste cose qua. Dacci qualche consiglio per la moda di primavera, come sempre. Sì. I tuoi sono sempre molto sensati. Diciamo che gli strappi si sono spostati dai jeans alle camicie, ecco. Mentre i jeans sono diventati molto più decorati, e qui è bello perché sempre, sai, la mia filosofia che ognuno deve un po' adattare, anche le tendenze sono divertenti da seguire, ma poi magari farle proprie, qui ci sono delle possibilità di DIY, cioè do it yourself, che puoi andare a comprare di tutto. Io ieri ho da Tiger, sai, uno dei miei posti preferiti, e lì anche tutto è per dire una soluzione low cost, quindi puoi prendere e farti tutti i tuoi badge, attaccare della passamaneria, oppure se vuoi puoi andare a prenderti quelli che ha disegnato Gigi Hadid per Tommy Hilfiger, e così sei super trendy. Allora, Gigi Hadid per Tommy Hilfiger, io intanto googlo che cosa ha disegnato. Una linea di jeans in particolare, di giubbetti bellissimi con degli inserti sulle spalle, molto divertenti. Mentre per gli accessori, che sai che è un accessorio forse di look molto più in fretta, quest'anno sono tornati tantissimo gli orologi ultrafiatti, un po' perché Swatch ha rilanciato la sua linea skin e tutti sono andati un po' dietro, quindi tutti questi orologi molto estivi, insomma in estate è meglio, visto che scopriamo le braccia, mettere magari degli orologi non preziosissimi, quindi dallo Swatch ai nuovi modelli di Calvin Klein o quelli di Emporio Armani che sono molto divertenti. Ce n'è anche un modello che si chiama non smartwatch ma intelligent watch, perché Armani è intelligent, non è smart, e quindi hanno anche tutte delle funzioni elettroniche pur sembrando degli orologi tradizionali, quindi non sembriamo il nerd che ha l'orologio troppo digitale, però in realtà è un orologio digitale, quindi in sempre realtà molto sottile. Ecco, ci eravamo comprati quelli digitali con le cifrine per fare tutti quelli un po' anni 80, adesso invece è l'ultrapiatto che è ci l'ultrapiatto piace di più. Sì, mentre per gli occhiali, poi sai che io sono un amante di gatti, per le donne è tornata tantissimo la forma cat eye. Pensa che Mikita, che è uno, insomma, un nome storico dell'occhialeria, un po' così di ricerca, addirittura ne ha dedicata una linea a un'attrice che negli anni 60 aveva interpretato Catwoman in una televisiva, mentre per gli uomini Aviator, però sempre un pochino rivisto, quindi ci ha pensato Thomas Meyer, che è il direttore creativo di Bottega Veneta, cioè ovviamente Ray-Ban, e poi per chi è presbite, perché purtroppo siamo in quell'età, quasi dai, ecco, non ancora tutto l'ombrellone, quanto fastidio dà non riuscire a leggere, però non si possono tirare fuori gli occhiali normali da vista, e allora quelli che una volta si chiamavano We Concept, adesso hanno cambiato nome, e secondo me il nome è stupendo, Izzy Pizzy, li trovate anche su internet, questi li hanno fatti coloratissimi, massimo 30 euro con tutte le diverse gradazioni, una diotria, due diotrie, questi per la spiaggia o per la piscina, chi non di noi potrà dovrà accontentarsi magari di una piscina, sono perfetti. Ecco, anche perché poi sono quelli che quelli veri hai paura di perderli, esatto, veri tra virgolette, invece così magari ne tieni un paio in ufficio, un paio bene, sì, bene. Poi adesso c'è questa catena che si chiama Now, che tra l'altro è una catena italiana, è un'idea geniale di un italiano, nasce nel distretto di Varese, che insieme a quello del Veneto è lo storico distretto degli occhiali italiano, e anche lì con delle cifre ragionevoli ti puoi divertire a cambiarli quando ti stufa un paio troppo colorato, quindi, e anche in questo caso ci sono da lontano, da vicino, lenti graduate su misura o non su misura, quindi da divertirsi anche con gli occhiali, insomma. Ho letto un tuo pezzo sul Sole, 12 collezioni l'anno, diciamo. Sono preparata di quello che scrive Giulia molto Crivelli. Ma mi piace leggere quello che scrive Giulia sul Sole, sono argomenti, anche perché lo diciamo sempre, noi ne parliamo sempre col sorriso di moda, anche un po' prendendoci in giro, ma è un'industria davvero importante e quindi... Sì, guarda, pensavo l'altro giorno che un po' i grandi nostri rivali in termini di filiere di produzione sono gli spagnoli, noi facciamo quasi 100 miliardi di fatturato tutta la filiera, gli spagnoli sono a 30, quindi d'accordo, perché poi hanno Inditex, i famosi Zara, perché se non avessero quello... Perché loro sono riusciti a fare, appunto, diciamo Zara, tanto non stiamo facendo pubblicità a nessuno, stiamo solo parlando di... Perché noi non siamo riusciti a fare quella cosa lì, Giulia? Perché non siamo riusciti a conquistare quel mercato lì? Ho mezz'ora, non credo. però sì, è un tema interessantissimo. Una volta, se vuoi, ne parliamo. Sì. Invece volevo dirti... Anche allora ti faccio fare i compiti. La prossima volta parliamo di perché in Italia non siamo ancora, spero, ancora riusciti a soppiantare queste cose di pronto moda, che sono poi un po' una droga, perché ci passi davanti alle vetrine, entri e compri anche se non hai bisogno di niente, spagnoli e svedesi, diciamo così. Sì. L'altra cosa, fiori dappertutto, preparatevi, fiori, perché appunto sì, adoro. Sui vestiti, sulle scarpe, dappertutto, ma poi i leggings, che secondo me sono molto meglio dei jeans strappati. E ho letto un articolo molto interessante di una scrittrice americana e diceva, tutto sommato vuol dire, se li mettono tutti, che nessuna ragazza, magari un po' formosa, si vergogna, perché i leggings purtroppo ti segnano, si vede anche la cellulite attraverso i leggings. Però quest'idea che ci sia questo grande, anche adesso, guarda, proprio a Monza guardavo, perché poi io guardo sempre cosa mettono i più giovani, tantissime ragazze con questi leggings, e anche lì ovviamente c'è da sbizzarrirsi, perché ce n'è di tutti i modelli possibili e immaginabili, da quelli più semplici che magari metti anche d'inverno sotto una gonna, quelli che invece d'estate usi proprio al posto dei calzoni, e anche qui secondo me è un po' quasi una piccola emancipazione, chi se ne frega se i leggings mi segnano, anche se non sono Elle Macpherson, che è la modella che addirittura viene chiamata The Body per il suo corpo perfetto. Non dirlo, perché poi alla radio ti credono, Giulia è un'acciughina. Io invece che sono un filino più culona, metto leggings i leggings. Anche a te. No, anch'io, ma magari con una camicia un po' più lunga. Ok. Ecco. Infatti, perché poi c'è quello, appunto, uno può giocare con la lunghezza della camicia. Ecco, camicia un po' più lunga, perché insomma, non sono proprio segaligna, ecco, un po' di rotondità in più ce le ho. Giulia, mancano le borse. Aspetta che qua mi siedo più comoda. Perché sai che... Allora, sempre budget ragionevole, quest'anno vanno tantissimo le cose di plastica, e che possono essere bellissime. Ci sono quelle gonfiabili di furla piccoline, bellissime, gonfiabili. Sì, guarda, che così puoi averla un po' come un, sai, quei canottini che li puoi fare un po' più o meno gonfi all'esterno. E poi ci sono quelle invece, vabbè, si è sbizzarrita anche la nostra, la signora di noi tutte, cioè Miuccia Prada, e lei le ha fatte proprio con i suoi fiori, che li ha messi anche sui sandali, sulle ciabatte addirittura, sempre Prada, ma sempre ciabatte sono. E poi invece, come non citare quella trovata di Balenciaga che ha fatto sfilare una borsa IKEA, sai, quelle azzurre che puoi comprare. Oh, all'IKEA. Questa è bella, sì, racconta. Però in stile super lusso, e quindi costa 1900 euro, mentre quella dell'IKEA costa 65 centesimi. E quindi l'IKEA, furbissimi, hanno subito fatto la pubblicità comparativa dicendo: ma vi sembra che valga la pena di spendere 1900 volte quella che la facciamo pagare noi? E però la trovo una trovata fantastica. Secondo me, Marta, io e te creiamo la linea delle borse IKEA by Marta e Giulia, cioè prendiamo tante borse IKEA, poi le decoriamo come vogliamo noi, non Dai. Le facciamo pagare 1900, massimo 20. Dai, però, fantastico. Perché quella misura lì, se ci pensi, è perfetta. Sì, perché mi pare quella giusta per andare al lavoro, per portarsi tutto quello esatto, che può servire per esatto. la giornata. Sì. Beh, esatto. Fantastico. Tra l'altro, visto che questa settimana ovviamente ti è toccato parlare molto ancora di acquisizioni, di firme sì. che passano di mano, è stato importante per quella la settimana, diciamo, soprattutto sì, dal punto di vista del cronista di moda. Questo exploit pazzesco di Gucci, e torniamo ai fiori, perché le ultime collezioni di Gucci hanno avuto tanto successo anche perché erano così allegre e fiorite, cioè è un marchio che in un mese, in un trimestre ha iniziato le vendite del 50%, quindi è proprio un momento d'oro per Gucci e buon per loro, insomma. In un trimestre, intanto sta passando un motorino che ti porta via, sì. In un trimestre più 50%, accidenti. Più 50%, si ha trainato i conti di tutta la holding a cui appartiene, che è il gruppo francese Kering, che è un gruppo da 12 miliardi, però è un volano in questo momento Gucci per quel gruppo. E quindi insomma io spero sempre, io non posso permettermi le borse Gucci, però se va bene, visto che sono tutte fatte in Italia, che danno lavoro a una filiera incredibile di pelletterie e ricami, io sono solo contenta se c'è chi se le può permettere, le compra in tanta quantità, potremmo dire. Esatto, perché noi invece di solito abbiamo il nostro porcellino, ci mettiamo dentro un po' di soldini ogni volta e una volta ogni parecchio tempo possiamo rompere il porcellino e concederci una bella borsa. Insomma, il porcellino sì, non tanto spesso, ecco. No, anche perché davvero di questi marchi stiamo parlando, sì, di prezzi altissimi, non lo contesto, però anche di qualità altrettanto alta. Perciò magari se cerchiamo, ecco, i modelli un po' meno di tendenza, che in questi negozi ci sono sempre, perché in vetrina vediamo i fiori, ma dentro ci sono anche i classiconi. Secondo me non sbagliamo, avremo sempre nell'armadio una borsa che magari spaltiamo una stagione, poi la ritiriamo fuori e rivediamo quanto è divertente portarla. Sono molto d'accordo con te. Intanto arrivano messaggi: no, io i leggings no, ma no, camicia un filo più lunga e via, perché solo per non evidenziare quella rotondità lì, ma camicia un po' più lunga e siamo tutte felici. Giulia, allora ti faccio fare i compiti, la prossima volta ci sentiamo, uh-huh. Cerchiamo di capire perché in Italia non siamo ancora riusciti a creare una catena come quelle spagnole o svedesi, dai. Sì, ti do l'appuntamento perché Benetton comunque si sta riprendendo, secondo me, ha capito che male. Quella la strada, andate, che se avete voglia fate un giro nei nuovi negozi Benetton, perché in quelli più rinnovati, perché anche lì è lo stesso meccanismo di cui parlavi tu, si entra, qualcosa si compra. Ecco, perché noi si è capito che tifiamo un po' per i marchi italiani, ma è normale, è un pochino certo. Facciamo il tifo. Grazie a Giulia Crivelli. Allora, le rassegne stampa di Giulia Crivelli, l'inglese a Radio 24 di Giulia Crivelli. Giulia Crivelli che scrive sul Sole 24 Ore di Moda, non ne abbiamo mai abbastanza. Grazie Giulia, alla prossima. Ciao. Che meraviglia, io sono sempre molto contenta di parlare con Giulia. Ma tra poco dobbiamo continuare a parlare di consumi in maniera un po' diversa, perché ci sarà lo spazio di Maria Luisa Pezzali a tra poco. Il sabato del villaggio. Beh, abbiamo parlato di cosa possedere, di cosa comprarci, infatti di moda, di novità per la primavera. Abbiamo sempre scherzato un po' con Giulia Crivelli perché è un argomento, l'abbiamo detto, molto sorridente e molto allegro, ma anche molto importante, perché per l'economia il settore della moda in Italia è davvero importante. Abbiamo parlato del grande Comic Con di Napoli, ci sono ancora biglietti per lunedì, quindi potete ancora correre a comprare i biglietti per il Comic Con, perché è davvero una bella esperienza se vi trovate in zona. Tra poco invece parleremo di una mostra dedicata a Gilles Villeneuve. State con noi perché fino alla fine di RadioTube, fino alle 18, abbiamo un sacco di ospiti davvero interessanti. Adesso però è il momento di aprire con gli ABBA il momento dei consumi. Parliamo in questa pagina dei consumi, ma credo da questo pezzo di avere un po' capito che siamo in ambiente mamme. Lo chiediamo subito a Maria Luisa Pezzali. Ciao Maria Luisa. Ciao Marta, un saluto a tutto. Sì, oggi ci dedichiamo proprio ai bambini e alle mamme, perché ci sono fasi della vita da mamma che pongono interrogativi sulle scelte di consumo, che lo sai, certo. È il mio approccio, il mio punto di vista, appunto. Una di queste fasi è lo svezzamento, una fase molto delicata, non si sa mai, insomma, se fare la cosa giusta, se si sta facendo la cosa giusta oppure no, e mi ha incuriosito allora questa startup che sta facendo molto parlare di sé. Si chiama Mamma Mama e produce e vende le prime pappe fresche bio artigianali per lo svezzamento, in pratica un'alternativa all'omogeneizzato industriale. Si possono comprare online oppure si possono trovare in una serie di negozi e supermercati, e presto, Marta, qui devi ricordarti un'altra puntata, arriverà la formula su abbonamento. Ricordi? Certo, ormai siamo nell'era dell'abbonamento, della subscription economy, ne abbiamo già parlato. Una startup 100% made in Italy che ha appena raccolto tra l'altro un importante finanziamento da una serie di investitori. Le fondatrici sono tre mamme, ovviamente solo loro hanno saputo individuare quello che mancava nel mercato. Una di loro è Erika Della Bianca. Buon pomeriggio Erika. Buon pomeriggio a tutti voi. Buon pomeriggio. Allora, raccontaci com'è nata Mamma Mama. Allora, Mamma Mama è nata veramente da un'esigenza reale di tre mamme, nel senso che io, quando ho avuto il mio primo figlio, nel momento dello svezzamento cercavo di cucinare tutto in casa con ingredienti biologici, sani, quanto più possibile. Però essendo una mamma moderna che lavorava e che comunque si spostava con il bambino, magari andando fuori a cena o piuttosto che andando nel weekend al mare o in montagna, sono andata al supermercato cercando un prodotto che fosse fresco, sano e biologico da usare proprio in queste occasioni in cui non mi era permesso fisicamente cucinare per lui. E mi sono molto stupita perché ho trovato in realtà le solite alternative, che erano le stesse che aveva avuto mia mamma 36 anni prima, quando aveva svezzato me, cioè il vasetto che aveva una scadenza di 3 anni di omogenizzato. Quindi ne ho parlato con due mie carissime amiche, anche loro mamme, e ci ricordiamo sempre questo caffè sulla mia terrazza una mattina di maggio del 2014. Ci siamo detti: ma è possibile veramente che adesso che sul food le aziende veramente stanno proliferando, cioè di tutto, ancora nessuno ha pensato ai bambini, facciamolo noi. E da lì è iniziata la nostra avventura. Tutte e tre facevamo tutt'altro nella vita, quindi abbiamo impiegato 18 mesi di studio per capire proprio anche solo banalmente cosa ci serviva per fare una cosa del genere, e poi ce l'abbiamo fatta. Dopo 18 mesi abbiamo creato la nostra prima pappa fresca, artigianale e biologica. Beh, già è una storia di successo, e mi piace che dall'esperienza personale possa nascere un'idea imprenditoriale, appunto, che funziona. Quali sono stati i punti da cui siete partite per poi passare dall'idea alla realizzazione? Quali sono, e in questo caso è normale dirlo, gli ingredienti di questo prodotto? Sì, allora, dunque, noi siamo partite innanzitutto studiando davvero, perché in Italia, grazie a Dio, la normativa sul baby food è molto molto diciamo ristretta, specifica. Quindi c'è una legge che si chiama ADAP, che è presieduta dal Ministero della Salute italiana. Quindi abbiamo studiato, abbiamo capito anche le figure professionali di cui dovevamo avvalerci, quindi una tecnologa alimentare specializzata, certo, appunto in questo settore. E poi da lì con lei abbiamo selezionato un laboratorio, anche lì è stata una scelta difficilissima, perché noi volevamo un laboratorio che cucinasse in maniera artigianale, quindi abbiamo scartato tutta una serie di laboratori che ci dicevano sì, ok, poi facciamo il brodo granulare, cuociamo le materie in questo modo. Cioè noi volevamo veramente la pappa fatta in casa, quindi pentolone, acqua, verdure, brodo, proteine cotte a vapore a parte, poi omogenizzate in un secondo momento. Poi l'altra grande scuola è stata la scelta degli ingredienti, appunto perché noi avevamo bisogno di ingredienti non solo bio ma anche ADAP, cioè che fossero comunque, che soddisfacessero i parametri di questa normativa che in Italia norma il baby food dai 0 ai 36 mesi. Quindi per fare un esempio, magari una zucchina che è biologica non può andare bene per un bambino di 4 mesi, perché banalmente ha dei parametri che possono essere gli OGM, comunque tutta una serie di contaminanti che sono, anche se biologici, non rientrano, non sono concordate per, certo, un'alimentazione di un piccolo. Quindi diciamo che in questi mesi ci siamo sentite dire tantissime volte: ma voi siete pazzi, non ce la farete mai, in Italia non è possibile, se non sei una grande multinazionale non potrai mai fare baby food in Italia. Invece alla fine, devo dire con grandissima soddisfazione, ce l'abbiamo fatta. E poi leggevo un po' dalla vostra rassegna, avete usato ovviamente come tester i vostri familiari, certo, addirittura un marito che ha provato la pappa con la colatura di alici, è così? Sì, è il mio marito. Ah, il tuo. Quello. Sì, è da Buon Salernitano. Sì, no, in realtà sì, vabbè, avevo fatto assaggiare i nostri figli e poi sì anche i mariti, ma in realtà perché sono pazzi, cucinato ovviamente senza sale e quindi senza alcun tipo di condimento, quindi sono buone perché gli ingredienti sono buoni, cioè la verdura sa veramente di verdura. Poi è ovvio che per gli adulti con un po' di olio parmigiano vabbè, la colatura di alice è un po' forse una forzatura, però in effetti sono buone anche per gli adulti. Devo dire che abbiamo dei clienti adulti senza bambini che ci comprano, questo fantastico, per certo, sì. State pensando, lo dicevamo prima, è vero, ad abbonare online personalizzati, quindi ha una formula proprio molto avanzata di e-commerce? Sì, sì, sì. Guarda, proprio adesso sono qui, tra l'altro, in riunione proprio su questo tema. E sì, perché poi quello che diamo noi, oltre alla qualità, è anche il servizio alla mamma. Quindi noi per prime ci rendiamo conto che a volte apri il frigorifero e ti accorgi che non hai la carota, la patata, la zucchina per fare il brodo, non hai neanche la pappa mamma, e è difficile in realtà improvvisare un pasto per un bambino piccolino, perché poi quando sono grandi magari fai un piatto di pasta al volo, però quando sono così piccoli è veramente difficile improvvisare un pasto. Ecco perché pensiamo che l'abbonamento possa essere molto utile all'interno di una della vita domestica delle famiglie. E beh, mi piace molto perché è una storia di successo ma anche di passione, di amore per i bimbi, è molto bella. Davvero grazie per essere stata con noi. mammamama.it, questo è il sito che stavo anche curiosando. Grazie, alla prossima occasione. Ciao Erika. Grazie a voi e buon pomeriggio a tutti. A presto. Grazie. Noi andiamo a sentire invece quali sono le chicche per questa settimana che ci ha scovato la nostra Cristina Lazzati, che dovremmo avere al telefono. Buon pomeriggio a tutti. Allora, Cristina, qual è la chicca di questa settimana? Allora, diciamo che gli italiani sono pieni di buoni propositi, mm-hmm, anche perché finalmente abbiamo capito che il cibo può aiutarci a vivere più a lungo e in maniera più sana. E secondo questa ricerca condotta da Nielsen, su un campione di 30.000 persone in 63 paesi, tra cui appunto l'Italia, sembrerebbe che gli italiani, quasi la metà, il 40%, conducono già uno stile di vita più sano, relativamente al, soprattutto all'alimentazione, ma sono anche pieni di buoni propositi, perché più della metà dice che comunque vuole mangiare più frutta e verdura, e questo siamo solo felici per loro e per noi. Vogliono diminuire gli zuccheri, che sembrano in questo momento i grandi nemici della salute, così come più cacao ma meno cioccolato. Quindi anche la parte, diciamo, di snack sembrerebbe più orientati a mangiare frutta e verdura cruda, piuttosto che però un 33% dice che comunque sullo snack si può chiudere un occhio e magari premiarsi in altra maniera. Però tra i cibi più interessanti in questo momento agli occhi degli italiani ci sono i cosiddetti superfood. Mm-hmm. Fondamentalmente tutto quello che sono bacche, eccetera. Piacciono un sacco le bacche di goji, che sono a questo punto ritenuti quasi un tocca sana, anche se devo dire che obiettivamente tutti lamentano un po' il fatto che comunque quando li vanno a comprare non è che si capisca tanto tocca sana per che cosa, è diciamo, vero. Che vanno un po' sulla fiducia. È un po' che non le vedo sul tuo desk, Marta, sulla tua scrivania. Ma c'è io stato un periodo. Sì, ma non solo bacche di goji, io sono proprio per questa cosa dei superfood, mi compro tutte le bustine oppure mi faccio dei piccolissimi, sì, dei piccolissimi contenitori che mi porto al lavoro con tutti frutta secca, bacche, queste cose qua tutti i giorni. Credo di essere influenzata da questa tendenza, semplicemente. Sei assolutamente in linea, perché ecco. Effettivamente rispetto a tutto il resto del mondo gli italiani puntano molto sulle noci in generale e anche sul tè, immagino più che altro il tè verde, non è specificato nella ricerca, però il tè verde, ma anche va tantissimo il caffè verde, è altra cosa che si beve in bustina e non ovviamente non è il caffè tradizionale per intenderci. I fagioli anche, gli italiani, il 47% degli italiani sono alla ricerca di fonti di proteine che non siano nella carne, stanno puntando molto sul fagioli, seguono comunque il salmone e appunto come dicevo il cacao che rispetto all'Europa va meno forte in Germania. E invece gli spagnoli ci superano perché sono addirittura più della metà, il 52% punta sul cacao come superfood. E poi lo yogurt, ecco, lo yogurt è sempre, da sempre ritenuto, cioè quando uno è a dieta dice mi faccio uno yogurt, adesso attenzione perché gli yogurt sono ricchi di grassi, anche se sicuramente sani e buoni. E guardate le etichette, perché appunto una cosa di cui gli italiani lamentano un po' è che vorrebbero delle spiegazioni un po' più semplici. Questo invitiamo quindi le aziende di produzione e i retailer di dare delle indicazioni, perché dove vanno a cercare, dove viene vissuto il cibo salutare? Guardando sull'etichetta, quindi attirano molto tutti quei prodotti con scritto fat free, senza zuccheri, meno zuccheri, senza qualche cosa che poi senza di qui, senza di là, uno si chiede cosa ci sarà dentro. Però questa è una domanda che mi faccio io, la ricerca di Nielsen non dice niente rispetto a questo. Sicuramente molti retailer stanno andando incontro a questa esigenza, nel senso che comunque mentre prima era difficile trovare degli alimenti tra virgolette biologici o comunque salutistici, oggi molti retailer hanno allargato la gamma delle private label proprio in questo senso, anche se appunto gli italiani lamentano un po' che nel negozio sotto casa non è sempre facile trovarli. Immagino che sia più facile in città grandi come Milano o Roma, probabilmente nel negozietto sotto casa di un paesino di provincia si continua molto con i grandi marchi conosciuti. Però diciamo che le etichette sono sicuramente il primo punto su cui andiamo a guardare. In seconda battuta i siti web medici sulla salute in generale, quindi molti vanno a cercare di capirne di più andando su internet. Ovviamente i classici familiari e amici che comunque aiutano sempre. Per poi passare ai professionisti, alcuni comunque, cioè sempre più italiani, ricorrono al dietologo o comunque al medico per chiedere quali sono gli alimenti che possono abbassare il colesterolo, se il colesterolo è un po' alto piuttosto che certo. Il livello degli zuccheri. Sicuramente il nemico numero uno, come abbiamo detto, sono gli zuccheri in questo momento, soprattutto quelli nelle bevande. Infatti molti italiani dicono che prediligeranno acqua naturale e succhi 100% frutta, mentre diminuiranno le bibite gassate e le bevande alcoliche. Come siamo virtuosi. Sì, veramente, guarda, mi ha stupito e devo dire che rispetto a qualche anno fa è cambiato completamente, mentre prima c'erano molti più, come dire, c'erano dei duri e puri del salutismo, ma erano delle nicchie. Oggi come oggi questa nicchia si è trasformata nella grande maggioranza, tant'è vero che comunque nella parte adulta gli italiani sono tra i più fit d'Europa. Grazie alla nostra Cristina Lazzati per la sua chicca della settimana. Allora, siamo sempre più sani, sempre più fit, e non sono solo io fissata con i sacchettini di Superfood. Grazie Cristina, al prossimo sabato. Grazie a voi, buon pomeriggio a tutti. E un grazie anche a Maria Luisa Pezzali con l'appuntamento con Essere Avere. Domani, dopo il GR delle 22, come sempre. Ciao Marta. Il sabato del villaggio. E ogni tanto al sabato del villaggio ci lanciamo e parliamo di sport. No, non voglio rubare il mestiere ai miei colleghi di Tutti Convocati o a Dario Ricci, insomma loro sì che ne sanno, però ci sono dei fenomeni che trascendono lo sport. Vogliamo riparlare di questo grande personaggio e vogliamo entrare in atmosfera, così. Al comando, Villeneuve si è portato al comando davanti a Chabuis, mentre anche Scheckter cerca di passare all'interno, Scheckter in terza posizione, quindi Arnoux che viene infilato da una delle brava Alfa Romeo. Villeneuve con un'eccellente partenza si è infilato tra le due Renault che avevano allargato e esitato un momento, e con la sua Ferrari si è portato al comando. Ecco Villeneuve della scia, attenta all'attacco all'interno, il pubblico qui davanti a noi grida, si entusiasma, e Arnoux resistono fino all'ultimo, eccezionale questa resistenza di Villeneuve, eccezionale, veramente un coraggio leonino quello del pilota franco canadese, un coraggio e una sensibilità di guida eccezionali. Ma vediamo se Villeneuve, con una corsa che va ricordata, riesce a occupare sì la seconda posizione. Grandiosa la corsa di Villeneuve e grande anche la corsa di Arnoux, è stata una corsa eccezionale. Una corsa eccezionale, beh, una voce eccezionale quella di Mario Poltronieri e un personaggio incredibile, Gilles Villeneuve, che è rimasto nei cuori di tutti. Perché ne parliamo oggi? Perché in questi giorni, pochi giorni fa, il 20 aprile è stata inaugurata allo Spazio Oberdan di Milano, sarà aperta fino al 16 luglio, quindi c'è tempo. Ormai Milano è anche una meta turistica, fortunatamente molto frequentata da tutti gli italiani, quindi è un'occasione che vi consiglio, insomma, di segnarvi. Prendetene nota, si intitola, insomma, ha anche un titolo bellissimo, Wow Gilles. Spazio Oberdan, Milano, una bellissima esposizione con tutta la storia umana e sportiva di Gilles Villeneuve attraverso oltre 170 fotografie di Ercole Colombo, reporter di sport tra i più apprezzati, poi tante immagini provenienti dal Museo Villeneuve in Canada e poi un motore originale, insomma veramente Delle testimonianze favolose della figura di questo pilota incredibile, di questo uomo del quale non ci dimentichiamo mai. Questa esposizione è stata curata da Ercole Colombo, il reporter che vi abbiamo appena citato, e da Giorgio Terruzzi. Buonasera Giorgio! Buonasera ragazzi! Ecco qua, allora lo conoscete benissimo, voce molto familiare non solo agli appassionati di Formula 1 ma anche agli ascoltatori di Tutti i Convocati. Tra l'altro sei appena stato ospite per parlare di un'altra cosa di cui poi ti chiederò un accenno. Allora, wow Gilles, perché dedicare una mostra a Gilles Villeneuve è ancora nei nostri cuori? Ma sì, insomma, lo spunto è che l'8 maggio saranno 35 anni dalla morte, però insomma è un viaggio dentro una figura fuori media, ma di un bel po', cioè di una teppa, di un bambino che aveva poi un'espressione con dentro una tenerezza, un'ingenuità, una lealtà straordinaria, però un furore agonistico da matto, è uno che ci ha fatto divertire, ci ha fatto sognare, ci ha fatto spaventare, perché tutti noi che seguivamo Gilles avevamo una sorta di presentimento. Infatti c'è stata una morte in qualche modo in linea con tutto il resto, con una scena, diciamo, spettacolare, drammaticamente spettacolare e clamorosa. Quindi una figura che ha dato moltissimo e infatti è ancora presente nella memoria. Noi abbiamo voluto fare una mostra raccontando anche un po' la sua storia, perché Wiener per i ragazzi, soprattutto più giovani di noi, è un nome, una cosa che sta nella fantasia, magari è meno conosciuta la sua storia, che è stata strana e intensa, è uno che ha cambiato la data di nascita sui documenti per sembrare più giovane di 2 anni, cioè uno che aveva come le attrici, che io frequento di più dei piloti, come le attrici. Sì, c'era uno che aveva un rapporto con lo stare al mondo iperbolico, era uno che guidava gli elicotteri seguendo le strade da sopra senza rotta, era uno che faceva cose raccontate da suoi colleghi piloti, quindi gente che è abituata a un certo tipo di emozioni e di estremità, diciamo così. 2 ore e 45 da Monte Carlo a Maranello in macchina con la Fiat, insomma, una figura che era coerente nel vivere con quello che faceva in pista, che ha toccato l'anima, perché la sua anima era un'anima da bimbo che giocava, insomma. Incredibile. Devo dire che appunto lui è scomparso nel 1982, ma lo amano, lo conoscono anche ragazzi che non erano nemmeno nati allora. Ma sì, perché insomma, gli eroi, come sappiamo, sono giovani e belli e restano, no? Cioè, poi con quel viso lì proprio da bimbo. Poi in qualche modo lui era manifesta una cosa che ai ragazzi piace, c'è cioè una sorta di disinteresse per il calcolo, tanto è vero che molti dicevano non vincerà mai un mondiale, vincerà solo delle corse, vabbè, non lo so, però certamente era uno che rischiava e provava anche quando non c'era in palio una vittoria, un po' a fondo perduto, per il gusto di, per manifestare un argento vivo, e questa cosa credo che in qualche modo rimanga nell'aria. Ci sono cose dei campioni che rimangono nell'aria in qualche modo, perché toccano qualche corda che ci riguarda, no? Ecco, credo che sia questo. Oggi è una giornata bella per la Formula 1, perché c'è stato un exploit della Ferrari a Sochi con le rosse in prima fila, quindi noi amiamo sempre la Ferrari, oggi è una bella giornata. Ma Giorgio, quella Formula 1 di un tempo è solo l'effetto nostalgia del quale abbiamo cominciato a parlare all'inizio del nostro sabato del villaggio, o aveva un po' di magia in più? No, aveva una cosa che adesso è un po' più difficile da rintracciare, cioè proponeva delle storie. Cioè, lì dentro c'era Enzo Ferrari, che è una storia a sua volta straordinaria, una storia che avrebbe raccontato a scuola, perché era un visionario, era un altro. Sì. Questo qui che a un certo punto litiga con Niki Lauda, che era campione del mondo, era il pilota più popolare di riferimento, e prende un ragazzino sconosciuto al posto di Lauda per dire sono le mie macchine, non è il pilota che fanno la storia. Prende sto ragazzino che sta in Canada, che va con le moto slitte, ci sono due foto, lì abbiamo la tuta sua con i buchi, sono le foto sullo schieramento di petto, sta tuta tutta rappezzata, era pilota Ferrari di Formula 1, cioè sono delle cose che viste adesso stanno nella luna, no? Prende sto ragazzino che a furia di incidenti, quindi era stato molto criticato Ferrari per aver preso questo qua, perché era uno che faceva dei danni, molti danni, ma dall'altra parte, proprio per questo, amatissimo. Quindi c'è una storia con questo stava in pista con la moglie, i figli, con il motorhome, quindi erano sempre lì, Jacques Villeneuve, che poi è diventato campione del mondo, era un bambino sempre in mezzo con le macchinine, cioè c'era una storia così evidente, così straordinaria, e questo tipo di storia con anche degli accessi a queste figure. Villeneuve era uno che parlava con tutti, cioè c'erano tempi e metodi che consentivano di trovare quei grani lì di umanità e poi raccontarli. Adesso è molto più difficile, questi ragazzi sono iperprotetti, non parlano. Credo che questo è un discorso lungo, sta dentro un'evoluzione anche dei metodi di comunicazione. Certo. È tutta gente che manda un sacco di tweet e dico ma non è come parlarci, ma cioè io se io mando un tweet e dico sono a Santa Margherita Ligure, sì, ma io volevo chiederti com'è il tempo, ma non lo so perché non posso parlarti, capisci? Cioè è molto diverso il modo di fare, non so dire, a me non piace far quello che dice ai miei tempi, però certamente se lo sport, e questo sono certo, lo sport viaggia con le storie, con le grandi storie di persone, adesso è più difficile. Ecco, sì. Giorgio, abbiamo proprio un pochissimo, un brevissimo estratto di un Enzo Ferrari che parla di Gilles Villeneuve. Tutte le volte che l'ho incontrato per me era una festa. Io non trovo parole d'occasioni. Sono stato male, ecco tutto. Che meraviglia, è proprio un'epoca che davvero di magia unica. Giorgio, però adesso che tu sei uscito con un romanzo che si intitola Semplice, io ti colgo un po' in castagna perché non te l'ho detto, no, che ti avrei chiesto qualcosa, però non hai parlato di automobilismo in Semplice, no, perché? No, perché questa è una storia, è un romanzo sull'amicizia che torna nella vita e cava fuori delle cose belle anche quando pensiamo di non poter cambiare più. È un romanzo tratto da una storia vera che ho visto dentro il rugby Milano, di un gruppo di ragazzi che cominciò a giocare assieme da bambini, che è stato attraversato da una tragedia come un ustione, e questi qui che adesso sono uomini si ritrovano per una coincidenza, per una necessità, insieme come erano da ragazzi, ritrovandosi e ritrovando un modo bello di scambiarsi, di guardarsi. Quindi è una cosa che non ha niente a che fare col motorismo, è una cosa a cui pensavo da tanto tempo, perché i protagonisti, poi non del romanzo ma della storia, sono molto vivi in me, nella mia testa, nella mia memoria, quindi non era bello provare a raccontare questa storia che poi ha dentro qualcosa che riguarda tutti forse, no? Cioè il fatto che stare attento all'altro, provare a discutere con l'altro, litigare, mettersi a confronto con le persone a cui si vuol bene, è sempre una cosa che genera energie, belle cose. Che bello, grazie a Giorgio Terruzzi. Grazie, allora, a voi. Wow, grazie Gilles allo spazio Aberdeen di Milano, però c'è anche il romanzo Semplice, sono molto contenta anche di aver speso due parole per questa storia importante. Grazie a Giorgio Terruzzi, ovviamente ti diamo appuntamento a tutti i convocati, perché è lì che insomma che tieni compagnia soprattutto gli ascoltatori di Radio 24. Grazie Giorgio. Noi ci ritroviamo tra poco, giornale radio del 17, poi il sabato del villaggio si trasforma in Radio Tube.